Capitolo 28. Inegi. 8 rintocchi e mezzo. Katz la stava guardando attentamente, gli occhi color caffè amaro che scintillavano alla luce della cupola. «Hai presente quei costumi?» disse lei. «Mantelli pesanti, cappucci. È tutto quello che i fiordiani vedranno. Un cerbiatto zemeni, una giumenta kelish». Deglutì e costrinse le parole successive a uscirle di bocca. «Una lince suli». «Non persone, non ragazze, solo adorabili oggetti da collezione. Ho sempre voluto rotolarmi con una ragazza zemeni», sussurravano i clienti. «Una ragazza kelish con i capelli rossi, una ragazza suli con la pelle color caramello bruciato. È un rischio», disse Katz. «Quale colpo non lo è?» «Katz, tu e Mattias, come farete a passare?» domandò Nina. «Potremmo aver bisogno di te per le serrature. E se le cose si mettono male sull'isola, non voglio finire bloccata. Dubito che possiate farvi passare per dei membri del serraglio». «Non dovrebbe essere un problema», disse Katz, «anche se Elvar ce l'ha tenuto nascosto. È così che sei Neji?» «Non è...» Mattias si passò una mano fra i capelli rasati. «Come fai a sapere queste cose?» ringhiò verso Katz. «Logico. Tutta la corte di ghiaccio è un capolavoro di misure di sicurezza e sistemi a doppia protezione. Quel ponte di vetro fa impressione. Ma in caso di emergenza ci deve essere un altro modo per mandare rinforzi sull'Isola Bianca e portare fuori la famiglia reale». «Sì», disse Mattias esasperato. «C'è una seconda strada per arrivare all'Isola Bianca, ma è un casino». Lanciò un'occhiata a Nina e di certo non può essere affrontata dentro un abito da sera. «Aspettate un attimo», l'interruppe Jasper. «Che cosa importa se arrivate tutti sull'Isola Bianca? Mettiamo che Nina si faccia spifferare da qualche fierdiano dove è rinchiuso Yul Bayur e lo portiate qui. Saremo intrappolati. Per quell'ora le guardie carcerarie avranno finito di perlustrare in giro e avranno capito che se i detenuti in qualche modo sono usciti dal settore. Avremo perso ogni chance di varcare i cancelli all'ambasciata e i posti di blocco». Katz sbirciò oltre la cupola, verso il cortile aperto dell'ambasciata, e ancora più là, verso la portineria, dalle mura di anello. «Wailan, quanto sarebbe difficile mettere fuori uso uno di quei cancelli?» «Per farlo aprire? No, per tenerlo chiuso. Intendi dire per romperlo?» Wailan alzò le spalle. «Non dovrebbe essere troppo difficile, non sono riuscito a vedere il congegno che lo regola quando siamo entrati, ma dallo schema direi che è piuttosto comune. Carrucole, ruote dentate, qualche vite davvero grossa?» «Beh, sì, è un argano di notevoli dimensioni. I cavi gli si avvolgono attorno come una grande bobina e le guardie lo girano con una specie di maniglia o di timone. So come funziona un timone. Puoi staccarne uno?» «Penso di sì, ma è il sistema d'allarme a cui i cavi sono attaccati che è complicato. Dubito di riuscirci senza innescare il protocollo nero». «Bene», disse Katz, «allora è quello che faremo». Jasper alzò una mano. «Scusate, il protocollo nero non è quello che vogliamo evitare a tutti i costi?» «Mi sembra di ricordare che il protocollo nero equivalga a morte certa», disse Nina. «Non se lo usiamo contro di loro. Questa notte quasi tutta la sicurezza della corte è concentrata sull'Isola Bianca e proprio qui nell'ambasciata. Quando suonerà il protocollo nero, il ponte di vetro verrà chiuso e tutte quelle guardie saranno intrappolate sull'isola insieme agli ospiti». «E la strada alternativa di Mattias per uscire dall'isola?» chiese Nina. «Non possono spostare un grosso spiegamento di forze da quella parte», riconobbe Mattias, «perlomeno non in fretta». Katz fissò l'Isola Bianca, la testa piegata, lo sguardo leggermente velato. «È la faccia che fa quando trama qualcosa», mormorò Inegi. Jasper annuì. «Proprio quella. Le sarebbe mancato quello sguardo. 3 cancelli nelle mura ad anello», disse Katz. «Il cancello della prima regione è sotto stretta sorveglianza a causa del protocollo giallo. Il cancello dell'ambasciata è un collo di bottiglia stipato di ospiti. I fierdiani non faranno passare le truppe da lì. Jasper, a te e Wailan rimane solo il cancello nel settore dei Druskel di cui occuparvi. Fate scattare il protocollo nero, poi distruggetelo. Sfasciateglielo a tal punto che le guardie chiamate a raccolta non riescano a uscire per seguirci». «Sono il primo a voler rinchiudere i fierdiani nella loro stessa fortezza», disse Jasper. «Davvero? Ma come facciamo a uscirne noi? Una volta innescato il protocollo nero, voi sarete bloccati su quell'isola e noi saremo bloccati nel cerchio esterno, senza armi e senza esplosivi». Il sorriso di Katz era tagliente come un rasoio. «Meno male che siamo dei ladri come si deve. Vorrà dire che faremo un po' di shopping e andrà tutto sul conto di Fierda». «Inei», disse, «cominciamo con qualcosa di brillante». Accanto alla grande cupola di vetro, Katz espose quello che aveva in mente, nei dettagli. Se il piano precedente era stato coraggioso, almeno faceva perno sulla discrezione. Il piano attuale era audace, persino folle. Non avrebbero semplicemente annunciato la loro presenza ai fierdiani, l'avrebbero strombazzata. La banda si sarebbe separata un'altra volta e un'altra volta avrebbero cronometrato i movimenti basandosi sui rintocchi dell'orologio maggiore. Ma a questo giro ci sarebbe stato ancora meno spazio per fare degli errori. Inegis ispezionò il proprio cuore, aspettandosi di trovarci cautela, paura, ma sentì solo che era pronta. Questo non era un colpo che stava mettendo a segno per ripagare il proprio debito a Peraskel. Non era un incarico da portare a termine per Katz o per gli scarti. Era per se stessa che lo faceva, per il denaro e per il sogno che il denaro avrebbe realizzato. Mentre Katz andava avanti a spiegare e Jasper usava le cesoie della lavanderia per tagliare la corda in parti uguali, Wyland dava una mano a preparare lei e Nina. Per farsi passare da ragazze del serraglio avrebbero dovuto avere dei tatuaggi. Incominciarono da Nina, utilizzando uno dei grimaldelli di Katz e le pirite di rame che Jasper aveva estratto dal tetto. Wyland disegnò sul braccio di Nina la migliore imitazione che gli riuscì della piuma del serraglio, seguendo la descrizione di Inegi e facendo delle correzioni laddove necessario. Poi Nina fece penetrare l'inchiostro nella propria pelle. A una caporalchi non serviva una da tatuaggi. Nina fece del suo meglio per spianare le cicatrici sull'avambraccio di Neji. Il lavoro non era perfetto, ma non c'era tempo e fare la plasmaforme non era la vocazione di Nina. Wyland tracciò lo schizzo di una seconda piuma di pavone sulla pelle di Neji. Nina si fermò. «Sei sicura?» Inegi fece un respiro profondo. «Sono colori di guerra», disse, «sia a Nina sia a se stessa, è il marchio che devo avere». «È solo temporaneo», le promise Nina, «te lo toglierò non appena saremo al porto». «Il porto». Inegi pensò alla Ferolind e alle sue bandiere spensierate e cercò di tenere quell'immagine in testa mentre guardava la propria e di assorbire la piuma di pavone. Quei tatuaggi non avrebbero superato nessun esame scrupoloso, ma la speranza era che non ce ne sarebbe stato bisogno. E finalmente si alzarono. Inegi aveva previsto che il serraglio sarebbe arrivato tardi, tante Ilen adorava l'entrata d'effetto, ma dovevano comunque essere pronti ad agire quando fosse giunto il momento. E tuttavia esitarono. La consapevolezza che avrebbero potuto non rivedersi più, che alcuni di loro, forse tutti, avrebbero potuto non farcela sopravvivere quella notte, rendeva l'aria pesante. Un giocatore d'azzardo, un detenuto, un figlio ribelle, una griscia smarrita, una ragazza Suli che era diventata un'assassina, un ragazzo del barile che era diventato qualcosa di peggio. Inegi guardò i suoi bizzarri compagni di ventura, a piedi nudi, tremanti nelle divise carcerarie sporche di fuliggine, i lineamenti illuminati dalla luce dorata della cupola e ammorbiditi dalla nebbiolina sospesa nell'aria. Che cosa li teneva insieme? L'avidità? La disperazione? O era semplicemente perché sapevano che se uno di loro, o tutti quanti, fossero scomparsi quella notte, nessuno sarebbe venuto a cercarli? La madre e il padre di Inegi forse versavano ancora delle lacrime per la figlia, che avevano perso, ma se lei fosse morta tra qualche ora, nessuno avrebbe pianto per la ragazza che era adesso. Non aveva una famiglia, non aveva dei genitori e non aveva fratelli o sorelle, solo persone con cui combattere fianco a fianco. Ma forse a quello... Ecco, quello era qualcosa di cui essere grati. Fu Jasper a parlare per primo. «Nessun rimpianto», disse sorridendo. «Nessun funerale», risposero tutti gli altri in coro. «Persino Mattias», mormorò le parole a bassa voce. «Se qualcuno di voi la scampa, faccia in modo che la mia cassa da morto resti aperta», disse Jasper mentre si caricava in spalla due rotoli di fune e faceva segno a Wyland di seguirlo sul tetto. «Il mondo si merita questa faccia fino all'ultimo momento». Inegi si stupì appena nel vedere l'intensità dello sguardo che si scambiarono Nina e Mattias. Era cambiato qualcosa tra di loro dopo la battaglia con gli Shu, ma Inei non avrebbe saputo dire cosa. Mattias si schiarì la voce e fece a Nina un piccolo inchino imbarazzato. «Posso scambiare due parole con lei in privato?» Nina ricambiò l'inchino e con aria decisamente più raffinata e si lasciò condurre via da lui. Inege era contenta, anche lei voleva avere un momento da sola con Katz. «Ho qualcosa per te», disse, ed estrasse i guanti di pelle di Katz dalla manica. della casacca della prigione. Lui li fissò. Come li ho recuperati dalla pila dei vestiti scartati prima di arrampicarmi. Sei piani al buio, lei annuì. Non si aspettava ringraziamenti, non per la scalata, non per i guanti, non per qualsiasi altra cosa. Lui se li infilò lentamente, osservò le proprie mani pallide e vulnerabili scomparirvi dentro. Erano mani da prestigiatore, lunghe dita aggraziate fatte per aprire serrature, nascondere monete e far sparire cose. Quando torneremo a Ketterdam prenderò la mia parte e lascerò gli scarti. Lui spostò lo sguardo altrove. Fai bene, sei sprecata per il barile. Era tempo di muoversi. Buona fortuna, Katz. Katz l'afferrò per un polso. Inegi. Il pollice rivestito dal guanto l'accarezzò dove le pulsava il sangue e sentì la punta della piuma tatuata. Se non ne usciamo vivi, voglio che tu sappia. Lei rimase in attesa, sentì che la speranza dentro di lei faceva frusciare le ali, pronta a spiccare il volo se Katz avesse pronunciato le parole giuste, per cui la costrinse a stare immobile. Quelle parole non sarebbero mai arrivate. Il cuore è una freccia. Allungò una mano e gli toccò una guancia. Era convinta che si sarebbe tirato indietro, che le avrebbe persino colpito la mano. In quasi 2 anni di battaglie fianco a fianco, di complotti orditi fino a tarda notte, di colpi impossibili, di commissioni clandestine e pranzi a base di patate fritte e hotspot ingollati di corsa mentre si precipitavano da un posto all'altro, questa era la prima volta che lei lo toccava veramente, senza la barriera dei guanti, della giacca o delle maniche della camicia. Gli incorniciò la guancia con la mano. La pelle di lui era fredda e umida per via della pioggia. Katz restò fermo, ma lei vide un tremito attraversarlo, come se stesse conducendo una guerra con se stessa. Se ne usciamo vivi, io morirò senza paura, Katz. Tu puoi dire lo stesso? Gli occhi di lui erano aperti, quasi neri, le pupille dilatate. Inegi si rese conto che stava impiegando fino all'ultima briciola della sua spaventosa forza di volontà per restare fermo sotto il tocco delle dita di lei, e malgrado tutto non si tirò indietro. Lei seppe che questo era il massimo che lui poteva offrirle, non era abbastanza. Tirò via la mano, lui respirò a fondo. Katz le aveva detto di non volere le sue preghiere e quindi lei non le avrebbe dette, ma gli augurò comunque di salvarsi. Aveva uno scopo tutto suo ora, il cuore aveva una direzione e sebbene le facesse male sapere che quel cambio l'avrebbe portata via da lui, l'avrebbe accettato. Inegi raggiunse Nina sul bordo della cupola per aspettare insieme l'arrivo del serraglio. La cupola era larga e poco profonda, tutta fatta di vetro e intrecci d'argento. Inegi vide che c'era un mosaico sul pavimento dell'ampia rotonda di sotto. Appariva per brevi istanti tra un individuo e un altro, due lupi che si inseguivano, destinati a rincorrersi in un cerchio fino a che ci fosse stata la corte di ghiaccio. Gli ospiti che entravano dal grande portale ad arco venivano condotti dentro alcune stanze fuori dalla rotonda, divisi in gruppetti e perquisiti per verificare che non avessero armi con sé. Inegi vide delle guardie uscire con delle spille, degli aculei di porcospino, addirittura delle fasce che lei immaginò contenessero del metallo o dei fili. «Non sei obbligata, lo sai», disse Nina. «Non sei obbligata a rimetterti addosso quelle vesti di seta. Ho fatto di peggio. Lo so, hai scalato 6 piani di inferno per noi. Non è quello che intendevo». Nina fece una pausa. «So anche questo», esitò. Poi disse: «La ricompensa è così importante per te». Inegi fu sorpresa di sentire del senso di colpa nella voce di Nina. L'orologio maggiore iniziò a suonare i 9 rintocchi. Inegi puntò lo sguardo in basso sui lupi che si inseguivano sul pavimento della rotonda. «Non so bene perché ho cominciato», ammise, «ma so perché devo finire. So perché il destino mi ha portata qui, perché mi ha messa sul cammino di questa ricompensa». Si manteneva vaga perché non si sentiva ancora pronta a parlare del sogno che le si era acceso nel cuore. Una banda tutta sua, una nave sotto il suo comando, una crociata. Sentiva di doverlo tenere segreto, come un nuovo seme che avrebbe potuto diventare qualcosa di straordinario se non fosse stato costretto a sbocciare troppo presto. Non sapeva nemmeno come manovrare una barca a vela, eppure una parte di lei voleva raccontare tutto a Nina. Se Nina non avesse deciso di tornare a Ravka, una spaccacuore sarebbe stato un acquisto eccellente per la sua banda. «Ecco», le disse Nina. Le ragazze del serraglio entrarono dalle porte della rotonda, gli abiti da sera che scintillavano alla luce delle candele, i cappucci dei mantelli che nascondevano i visi. Ogni cappuccio rappresentava un animale, un cerbiatto zemeni dalle orecchie morbide e le graziose macchie bianche, una giumenta Kelish del codino ramato, un serpente Shu dalle squame rosse decorate di perline, una volpe ravchiana, un leopardo delle colonie del sud, un corvo imperiale, un ermellino e naturalmente la lince Suli. La ragazza bionda e alta che interpretava il ruolo del lupo fiordiano in pelliccia d'argento era la grande assente. Delle soldatesse in uniforme andarono loro incontro. «Non la vedo», disse Nina. «Aspetta, il pavone entrerà per ultimo». E infatti eccola lì. Ellen Van Uden, luccicante nel suo abito di rosso color verde acqua e con un'elaborata gorgiera di penne di pavone a incorniciarle la testa color oro. «Sobria», disse Nina. «La sobrietà non vende nel barile». Inesi fece un fischio acuto e cinquettante. Quello di Jesper arrivò da qualche parte in lontananza. «Ci siamo», pensò. Aveva dato lo spintone, ora il macigno stava rotolando giù dalla montagna. Chi poteva sapere quali danni avrebbe fatto e cosa sarebbe stato ricostruito sopra le macerie? Nina guardò attraverso il vetro e strabuzzò gli occhi. «Come fa a non crollare sotto il peso di tutti quei diamanti? Non possono essere veri». «Oh, sono veri e come», disse Inesi. «Quei gioielli erano stati comprati con il sudore e il sangue e il dolore di ragazze come lei». Le guardie separarono le ragazze del serraglio in tre gruppi, mentre Ellen veniva scortata via da sola. Non si poteva pretendere che il pavone si levasse i vestiti e si sollevasse le gonne di fronte a loro. «Eccole», disse Inesi, indicando il gruppo che comprendeva la Lince Suli e la giumenta Kelish. Si stavano dirigendo verso le porte sulla sinistra della rotonda. Mentre Nina fissava il gruppo, Inesi si spostò sopra il tetto, seguendo la loro traiettoria. «Quale porta?», chiese. «La terza a destra», disse Nina. Inesi si spostò verso il condotto d'aria più vicino e sollevò la griglia. Sarebbe stato bello stretto per Nina, ma se la sarebbero cavata. Scivolò dentro il condotto di ventilazione, accovacciandosi e procedendo nel tunnel. Sentì dietro di sé un grugnito. A seguire un sonoro sbam, nel momento in cui Nina urtò il fondo del cunicolo come un sacco di biancheria. Inesi trasalì. Bisognava sperare che i rumori della folla di sotto avessero coperto i loro, o che alla corte di ghiaccio ci fossero dei ratti davvero grossi. Strisciarono avanti, sbirciarono nelle ventole mentre procedevano. Alla fine si ritrovarono a guardare dentro una specie di saletta sequestrata dai militari per perquisire gli ospiti. Le creature esotiche si erano tolti i mantelli e li avevano appoggiati su un lungo tavolo ovale. Una soldatessa bionda le stava ispezionando. Tastava le cuciture e gli orli dei costumi e infilava persino le dita nei capelli, mentre l'altra soldatessa stava a guardare con in mano un fucile. Sembrava che l'arma la mettesse a disagio. Inesi sapeva che i fiordiani non permettevano alle donne di prestare servizio militare nei reparti di combattimento. Forse le soldatesse erano state precettate da qualche altro reparto. Inesi e Nina attesero che le guardie avessero finito di perquisire le ragazze, i mantelli e le borsette con perline. «Ventider», disse una delle due, mentre uscivano dalla stanza per consentire alle ragazze di rimettersi a posto. «Cinque minuti», tradusse Nina in un bisbiglio. «Vai», disse Inesi. «Mi serve che ti sposti». «Perché?» «Perché ho bisogno della visuale libera e al momento tutto quello che vedo è il tuo sedere». Inesi lo fece e un istante dopo udì quattro tonfi delicati mentre le ragazze del serraglio crollavano sul tappeto blu scuro. Velocemente tolse la griglia con una strattone e cadde sulla superficie lucida del tavolo. Nina ruzzolò giù dietro di lei, atterrando come un sacco. «Scusa», disse con un gemito mentre si rimetteva dritta. Inesi per poco non scoppiò a ridere. «Sei così leggiadra in battaglia, tranne quando ti cali dall'alto. Quel giorno ho saltato la scuola». Svestirono le ragazze Suli e Kelish, lasciandole in biancheria intima. Quindi legarono i polsi e le caviglie di tutte le ragazze con i cordoni delle tende e le imbavagliarono, strappandosi via dei pezzi di divisa. «Il tempo scorre», disse Inesi. «Scusami», sussurrò Nina alla ragazza Kelish. In condizioni normali avrebbe usato dei pigmenti per cambiarsi il colore dei capelli, ma non c'era proprio tempo, quindi strizzò il rosso acceso della ragazza facendolo colare direttamente dalle ciocche di lei, lasciando la povera Kelish con dei capelli bianchi che in alcuni punti sembravano vagamente arrugginiti e dando proprio un colore che non era esattamente rosso Kelish. Gli occhi di Nina erano verdi e non azzurri, ma quel tipo di modifica non poteva essere fatta di corsa, per cui avrebbe dovuto accontentarsi. Prese della cipria bianca dalla borsetta della ragazza e fece del proprio meglio per schiarirsi la pelle. Mentre Nina si dava da fare, Inegi trascinò le altre ragazze dentro un armadio di legno color argento, addossata alla parete più lontana, sistemando le gambe in modo che rimanesse dello spazio per la Kelish. Sentì una fitta di senso di colpa quando si accertò che il bavaglio della Suli fosse a posto. Tante Ilen doveva averla comprata per rimpiazzarla, aveva la stessa pelle bronzea, la stessa massa di capelli neri, aveva però una corporatura diversa, morbida e con le curve, anziché magra e spigolosa. Forse era arrivata da tante Ilen di sua spontanea volontà. Forse aveva scelto lei quella vita. Inegi sperava fosse vero. Che i santi ti proteggano, sussurrò la ragazza priva di sensi. Bussarono alla porta e una voce parlò in fierdiano. Serve la stanza per le ragazze del turno dopo, bisbigliò Nina. Inegi e Nina spinsero la Kelish nell'armadio e in qualche modo riuscirono ad accostare i battenti e a chiuderli a chiave, poi si infilarono nei loro costumi. Inegi fu felice di non avere tempo di soffermarsi sulla sgradita familiarità della seta sulla pelle e sull'orribile tintinnio dei campanelli alle caviglie. Si buttarono addosso i mantelli e si diedero una veloce occhiata allo specchio. Nessuno dei due costumi andava bene. Le vesti di seta viola di Inegi erano troppo larghi e per quanto riguarda Nina, cosa diavolo dovrebbe essere? Disse guardandosi in basso. L'abito attellato le copriva malappena la consistente scollatura e le stava appiccicato sulle natiche. Era stato realizzato per dare l'impressione di essere fatto di squame verdi e blu che diventavano un ventaglio di chiffon luccicante. Una sirena? Suggerì Inegi. O un'onda? Pensavo di essere un cavallo. Beh, di certo non ti avrebbero messo addosso un vestito di zoccoli. Nina passò le mani sul proprio ridicolo costume. So per diventare molto popolare. Mi domando cosa direbbe Mattias del tuo travestimento. Non lo approverebbe. Non approva niente che ti riguardi. Ma quando ridi si solleva di scatto come un tulipano nell'acqua fresca. Nina sbuffò. Il tulipano Mattias. Il grosso minaccioso tulipano giallo. Sei pronta? Chiese Nina mentre si calavano i cappucci fino a coprirsi del tutto la faccia. Sì. Inegi diceva sul serio. Bisognerà distrarle, altrimenti si accorgeranno che sono entrate in quattro e ne stanno uscendo soltanto in due. Lascia fare a me. E stai attenta all'orlo del tuo vestito. Non appena aprirono la porta per uscire in corridoio, le soldatesse fecero loro cenno di muoversi, impazienti. Sotto il mantello, Nina fece schioccare le dita con forza. Una delle due fece un verso simile a un belato, quando il sangue cominciò a uscirle a fiotti dal naso e le zampillò, in modo comicamente assurdo, sul davanti dell'uniforme. L'altra indietreggiò, ma l'istante successivo si tastò lo stomaco. Nina stava ruotando lentamente il polso, procurando alla donna delle ondate di nausea. Nausea. L'orlo, ripete Nina con calma. Inegi ebbe appena il tempo di tirare sul mantello prima che la guardia si piegasse in due e riversasse la cena sulle piastrelle del pavimento. Gli ospiti nel corridoio strillarono e si spintonarono via vicenda per allontanarsi da lì. Nina e Inegi volteggiarono attorno, emettendo a proprio squittii di disgusto. Probabilmente il sangue dal naso sarebbe stato sufficiente, bisbigliò Inegi. In certi casi meglio non risparmiarsi, disse Nina. Se non ti conoscessi bene, penserei che ti piace far soffrire i fierdiani. Tennero la testa bassa e si intrufolarono nel mare di gente che affollava la rotonda, ignorando il cerbiatto Zemeni, che tentava di indirizzarle dall'altra parte della stanza. Era fondamentale che non si avvicinassero troppo alle vere ragazze del serraglio. Inegi sperava che i loro mantelli non fossero facili da rintracciare nella folla. «Questa qui», disse Inegi, spingendo a Nina dentro una fila lontana dalle ragazze del serraglio. Sembrava muoversi un po' più veloce, ma quando arrivarono ai controlli, Inegi si chiese se non avesse scelto la fila sbagliata. Questa guardia sembrava persino più severa e con meno senso e lumerismo delle altre. Tese la mano per avere i documenti di Nina e li scrutò con freddi occhi azzurri. «Qua c'è scritto che lei ha le lentiggini», disse in Kerch. «Le ho», disse Nina affabilmente, «solo che adesso non si vedono. Vuole vederle?» «No», rispose il ferdiano, gelido. «Lei è più alta di quel che risulta qui. Gli stivali. Mi piace poter guardare un uomo negli occhi. Lei ha degli occhi bellissimi». Lui osservò le carte, poi la scrutò. «A un primo sguardo direi che lei pesi più di quel che dice questa carta». Nino scrollò assolutamente le spalle, facendo scendere le squame nella scollatura. «Quando sono in vena mi piace mangiare», disse, e protese le labbra senza vergogna. «E io sono sempre in vena». Inegi si sforzò di mantenere un'espressione seria in viso. Se Nina si fosse Messa anche a sbattere le ciglia, non ce l'avrebbe fatta e sarebbe scoppiata a ridere. Ma il ferdiano sembrava essersela bevuta. Forse Nina faceva quello stupefacente effetto su tutti i bacchettoni del nord. «Può andare», disse la guardia in tono burbero. Poi aggiunse «Potrei essere alla festa più tardi». Nina fece scorrere un dito sul braccio di lui. «Le concederò un ballo». L'uomo sorrise come uno sciocco, poi si schiarì la gola e tornò alla sua espressione severa. «Santi numi», pensò Inegi. «Deve essere estenuante essere sempre così impassibili». Il ferdiano guardò i documenti di Inegi in modo superficiale, ancora immerso nel pensiero di scartare uno dopo l'altro gli strati di chiffon verde e blu di Nina. Le fece segno di procedere, ma appena fece un passo avanti, Inegi inciampò. «Aspetti», disse la guardia. Lei si fermò. Nina si guardò alle spalle. «Cosa hanno le sue scarpe?» «Mi stanno un pochino grandi», rispose Inegi. «Si sono allargate più di quel che mi aspettassi». «Mi faccia vedere le braccia». «Perché?» «Lo faccia e basta», replicò la guardia con durezza. Inegi liberò le braccia dal mantello e le tese verso di lui, mostrando lo sgraziato tatuaggio a forma di piuva di pavone. Una guardia con i gradi da capitano si sporse a vedere. «Che cosa c'è?» «È una Suli, non c'è dubbio, è il tatuaggio del serraglio, ma mi sembra un po' strano». Inegi scrollò le spalle. «Mi sono procurata una brutta ustione da bambina». Il capitano indicò un gruppo di festanti dall'aria infastidita radunato accanto alle entrate e circondato dalle guardie. «Tutti i sospettati vanno là. Mettila con loro. La riportiamo al posto di blocco e verifichiamo i documenti». «Mi perderò la festa», disse Inegi. La guardia la ignorò, la prese per un braccio e la spinse indietro verso l'ingresso, mentre le altre persone in coda guardavano e bisbigliavano, il cuore prese a martellarle in petto. Nina era terrorizzata, pallida in viso e persino sotto la cipria, ma non c'era niente che Inegi potesse dire per rassicurarla. Le fece un velocissimo cenno con il capo. «Va», pensò in silenzio, «tocca a te ora».